attenzione su 10, Black, c'è nessuno? No? Attenzione su 10, ah. C'è nessuno, buonasera. E non abbiamo rosso. Questa è la strada, siamo attenta. E va bene così. Ora 3456 prova. Ora. Oh, Ebbe, come va? Tutto a posto, sì. Tutto a rossero. Meglio così. E ora. Aspetta un secondo. Ok. Chiuso tutto. Ok, vabbè. Va bene. E tutto a posto, sì. Ehi, a noi, tutto a rosso. E poi c'ho 3 giorni di meglio così. Sono contento, va. Meglio. E ora. Mi sono scancellato da quel sito di Alghero, la verità, stamattina. Oh, sei andato a Torino? Sì. Sì, via ha rotto i coglioni, quindi in pratica me ne sono andato. Ma neanche adesso. No, ma mi hanno avuto le balle a un certo punto, quindi ho chiuso tutto, ma fa culo. Carlo era, dice no, non farlo, ma no, gli ho detto, non mi interessa. Vabbè, sai com'è, no? Fatto a un certo punto. Gli alberi non sai come sono fatti, no? Sta arrivando bene, la verità. Quasi 9:26, quindi figurati tu. Anche tu sei così, a 9:20, sì. Aspetta, se hanno 20 e passa. Adesso vediamo come la mano pesca. Questo tensiometro che ogni tanto ah già va bene, allora, ci mancherebbe, così io sono così, ora, quasi 20 watt. E spacca le 10, aspetta a vedere. A voglia, visto vai, ci mancherebbe, ora. Guarda che cavale dici, cava, no, aspetta, vai troppo. fate la imitazione, quindi a un certo punto. Così sei 9:10. Cosa fai 9:30? Dove sei 9:30? 9:20. Però la radio era la compressa, esatto. Capito. Che va bene. Grazie a tutti i positivi, io sto quasi a 9:10, faccio 9:20, quasi. 9:15 abbondanti, va bene. C'è provocazione in pratica, cioè, si è accorto, sì. Ehi, si è accorto, c'è questa arrivata a 7. Infatti io ho iniziato il salto. Attenzione, buon pugno. Ehi, avanti, buonasera. E va, vai sì, giù è. Certo che ti sento, a voglia. Chi è l'amico? Ah, sulla buona anima, Gianni Capri 2, no. Ciao, buonasera Gianni. Chi è Antonio? Bene, bene, a voi sto bene, e ci mancherebbe. No, assolutamente no. E quindi tu sei a casa e lavori per lui, in pratica. Là. Ho capito, non c'è problema. Ehi, qual è il problema? Ci mancherebbe. A un certo punto. A posto siamo. Ehi, ok, non c'è problema. D'accordo, avanti. Antonella, dove modula questo amico che l'ha scelto basso? Ho capito. Dove modula che l'ha scelto basso? Alzatia, sentite lei, sì, come lui dice, in pratica, boh, non lo so. Perché io sono una pedania, dove c'è un nuovo bricco, ma lo sento in mezzo a QRM. Sì, ma tu sei basso di radio mio, bambini, anche il segnale. Ma che segnale? Allora controllo l'antenna, dai. Ci vediamo dopo, dai. Beh, che ti ho riconosciuto la verità, eh. Adesso com'è? No. Assolutamente. Segnale neanche 9. No, adesso è più alto, però dai, dice la verità. Controllati tutto che è meglio. A un certo punto. Dai, adesso mi sono controllato ATL dell'antenna, forse quello lì che sta dispensando, dai. Ma la verità, manco te avevo riconosciuto a un certo punto. Dai, ci sono dopo, Antone, dai. Va bene, là. Ok, già sono qua l'ascolto. Magari è un PL, magari mezzo male, quello che è, non lo so. Perché non è possibile, cazzo, che esci in queste condizioni. Non è... Cioè, uscivi minimo 9:20, 9:30, quello che è. Sono in macchina, sono in barra mobile con la base magnetica. Ah, sei in macchina, sei allora. Sei in macchina, la pedaniera, con la base magnetica, sei sulla cappotta. Ah, allora è un discorso diverso, scusa, io pensavo diversamente. E sono attaccato, adesso sono attaccato, lo vedi? Ho capito. Dai, che sono un meccanico che devo pagare a Napoli per me. D'accordo, ok, che sono qua. Io lo dico, certo, basso, nel senso di... non sono da qua però. Sono qua, non ti preoccupare. Basta che tu rientri e poi facciamo... Boh, non so cosa dirti, vabbè, comunque sia, però rientri, non c'è problema. Dai, a dopo, dai. D'accordo, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Ora. Sono rotte il pacioccio, sì, pacioccio. Mi sono rotte il pacioccio, sì, pacioccio. Rotte il pacioccio, sì, pacioccio, pacioccio, pacioccio, secchia cazzi. anche qua cambiato. Attenzione sul 10, c'è nessuno? Mac sul 10, buonasera, c'è nessuno? Attenzione sul 10, c'è nessuno? Se non c'è uno vicino, se non staccarsi lo smettere. Spero così. Prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, salute tenga sull'abitazione, 1, 2, 3, prova, c'è nessuno? Sì, no, era itto. Attenzione, chi è con l'MC60? Dico beh. Attenzione, chi c'è sul canale 10? Buongiorno. Buonasera amico. E sei avanti? Sì, buonasera. E beh, come va? Tutto a posto, sì. A Osilo. Con voi, non ti avevo riconosciuto. Buonasera. Ascolta, carissimo, mi devo fare un controllino come ti sto arrivando io alla tua station. Alla giuntinetta, sempre con la buonasera qua dall'Uranio, qua in collinetta. A te il cambio. 9:10, sei qua. Dalla collinetta, la verità. Mi senti 9:10, hai detto? Sì, va bene. Ok, perfetto, va bene, riprendi. E tu come va? Tutto a posto? Sì, me lo auguro. Sì, tiriamo avanti. Tu stai arrivato benissimo qua, un segnale di 9, 9, 10, modulazione 5, là. Ok, perfetto, anche tu stai arrivando bene qua, eh. Ok. Bene, non c'è nessuno qua in frequenza, quanto pare stavo provando da qualche po' di tempo qua, ma adesso sei entrato tu, vabbè, ok. Sempre con una buona sera, ti cambio. No, non c'è nessuno, non lo so, la verità, siamo solo noi, come ci diceva, no, a un certo punto. Delle volte è meglio soli, mal accompagnati, va? Tanto per dire una battuta così, senza offesa per nessuno. Ok, perfetto, a te il cambio. È appunto per quello. Cioè è giusto, grazie a Dio è giusto, ci mancherebbe. Ah, ok, va bene, perfetto. Cosa apparecchio stai utilizzando in stazione? Il 140 sto usando io. Aspetta, sento benissimo, sento benissimo, bella apparecchio, bellissimo, mi piace troppo. Peccato che non posso averlo io, sono povero, non me lo posso permettere, ma non si sa mai, delle volte, chissà, con l'andare del tempo magari uno ci può anche riuscire, diciamo, ad acquistarlo, boh, oppure solo con la fotografia, dipende, là. Comunque, a parte gli scherzi, sta uscendo benissimo, dai, perfetto. Ok, a te il cambio. Esagerato, non con 300 euro lo prendi, cazzo, quel mio. Ciao, buonasera. Ben sentito, Daniele. Buonasera. Buonasera l'amico, da dove, da quale zona stai modulando? A te il cambio, buonasera, stazione Uranio, comunque dalla collinetta di Osilo qua, a te il cambio, buonasera. Ah, buongiorno Uranio, Daniele da questa, zona Istiri. Caspita, mi sta arrivando benissimo qua, Tu arrivi un segnale di nuovo, è una radio 5 qua, non so come ti stia arrivando io lì, però tu qua stai arrivando una telefonata, perfetta, ok, complimenti, a te il cambio. Contraccambio uranio, contraccambio rapporto radio, segnale. Idem anche per te. Perfetto, Rover Radio 5. La modulazione che è perfetta e pulita. Bella, bella, bella, va bene. Ah, ok, perfetto, meglio così allora, dai. Meglio così, è un bel microfono l'MC60, non è per tutti avercelo, magari ce l'avessi io. Vabbè, comunque anche un microfonino così già va bene lo stesso, dai. Senza l'MC60, a parte che costa un sacco di soldi, quindi no, è difficile acquistarlo, Quando divento ricco lo acquisterò anch'io, chissà quando crepo magari, ma momentaneamente rimaniamo senza. Va bene, ok, perfetto, dai, riprendi Antonello. Comunque hai avuto quel microfono, tu già lo sai, quindi non è che non hai avuto, no, l'amico di Osilo, cioè non di Osilo, Osilo sei tu naturalmente, ma comunque sia, quello, quanto può essere, adesso mi ricordo il caso è stato, vediamo il figlio del coso, del carabiniere, quindi ha voglia, lui ci aveva tutto, ci aveva, quindi a un certo punto basta che lo trova e per piatti, non è che sia questo granché, no. Vabbè, adesso se pare che non lo sento con la ragazza lì. Pensando di fatto col tetto, dai Nara, fai da Bottonio, dai, fai da Nara Miduto. Cosa c'è? Mi cattivo, cazzo, mi stai girando la casa. Fai da, fai da. Quella casa, come dopo si chiama, adesso non mi ricordo più questa, la verità, il nome attivo, comunque sia, ti ha fondito parecchie robe, parecchie cose, ma quello che, ma, mica te lo trovi niente di male, ti stai incazzando, boh, a un certo punto. Porca miseria, è usato di tutto, il 440, il coso, il lineale, eccetera, eccetera. Usare uno, fatelo pensare, eccetera, eccetera. Adesso non mi ricordo il nome nativo, quello di Ludwig, mi sembra che è. Non me lo ricordo. Pure secondo me è un giugacavo. Ha fonato chi so è questo viseddo mio. Ti so fai dente come in radio, ma non ha compreso due, no. Ti so fai dente il saldo mio, che su CB siamo mi, non siamo in un'altra frequenza. Non ha compreso nulla da due. A mi intende se? Cazzo di ora! Ora che. Che ti sentivo, cazzo? Vaffanculo. Ciao, va bene, come stai? Beh, tutto a posto, sì. E forse un'ora vai bene, stai comprendo. Caso è, dai, sto bene, dai. Il mitico Pomponio, quando mai uno non entra? C'era Uranio, Pomponio, Daniele, che saluto anche la 25, se è lì presente. Ciao Daniele, dai, ripasso di nuovo a te, Pomponio. Beh, cosa ti devo dire? Niente, noi siamo. Noi abbiamo fatto altri passi, siamo in altre postazioni, mi Daniele già lo sa. Tu invece si fermo qua, non stai facendo niente, cosa stai combinando? Illuminaci l'immenso, Pomponio. Sempre qua sono io, lo sai, ormai dove vado? A un certo punto, per carità, quindi sei qua, vaffanculo a te, mi avete preso per il culo, tutti e due avete preso per il culo, io pensavo che si era offeso, eccetera, eccetera, e invece, cazzo, c'è tu dietro, vaffanculo a te, cazzo. Qua c'è lo scudo, vabbè, dai. Sono entrato perché stavi menzionando da 20 minuti il mio nominativo, ho fatto vedere, cavolo, già da un'altra volta che lo stava dicendo. Ed eccomi qua, ti accontento subito, eccomi. Comunque va, non mi dilungo troppo nel parlare, che voglio salutare Daniele. Avanti Daniele, se mi senti. Ciao. Ehi, qua siamo. In nuove postazioni siamo. Ma cos'è, sempre quella schigia che mi hai fatto vedere l'altra volta stai usando? Questo è un altro, Antone, ma ora, questo è un altro. Ah, l'ultimo che ti era arrivato, non mi dire no. Vabbè, dai, comunque quello grigio, sì. Cappa, il gemello di quello che c'ho, il gemello, questo è il 40. Vabbè, non te lo volevo dire, là, perché... complimenti, in ottima modulazione, siamo a Tessi Radio. Va bene, dai, un salutone Daniele, salutami anche la tua 25 a fianco, se c'è, se no, è lo stesso, così. Rifaccio tutto il cambio a te, però io mollo, dai, ci sentiamo, siete tre più cordiali. Io mollo perché devo fare altro, comunque già ci sarà occasione di sentirci. Io in CB non sono anni che non entro, sono anni, però l'amicizia e la voglia di dare una mano c'è stata, perché vabbè dai, io ho una piccola mano, non c'è nessuno che viene a dargli una mano, per forza poi cosa fai? Abbandoni gli amici? Allora questa è la situazione. Comunque ripasso il cambio a te Pomponio, poi parla Uranio perché io devo fare roba, dai, siete te più cordiali, ciao, già vi ascolto volentieri, vai Pomponio, sempre il numero uno e continua a ribadirlo, ciao. Grazie, ti ringrazio, la verità. Per l'apparecchio che ho ancora funzionante mi sta anche bene, cazzo, sempre il numero uno. Ok, va bene, avanti Uranio. Ok, vabbè, ma allora non ti ricordavi il numero attivo? È facilissimo già, il numero attivo molto semplice. Attenzione alle esplosioni, perché se esplode quella sono cavoli amari, qualcuno possa anche saltare in aria. Varie volte, bisogna sapere usarla quella lì, perché è molto pericolosa. Perfetto, dai, ok, anch'io non mi dilungo molto perché devo fare qui si grecca in parti esterne, quindi vi saluto tutti e due perché passo in momentaneamente in QRT, magari ci sentiremo in altre occasioni, perfetto. Saluto a tutti e due, è per me QRT, Daniele Dittiri mi pare, sì, Daniele Dittiri, a te Pomponio, salutoni cordiali qua dalla stazione Uranio, qua dalla collinetta di Osino. Con vero piacere, mi ha fatto veramente piacere sentirvi tutti e due, e per me diciamo è QRT. Ok, a te Daniele il cambio, fa girare per Pomponio, ascolto i vostri finalini, e per me è QRT e SKCL. A voi il cambio. Perfetto, perfetto, mi ha fatto piacere sentirvi a tutti e due, dai. Bene veda, salutami Usilo, un po' da risalirò a trovare vecchi amici e niente, poi come rientro la saluto anche la 25, che questa volta è andata a lavoro, ma tra un po' già rientra. Perfetto, dai, buon proseguimento, buon tutto, mi ha fatto piacere ascoltarvi, a te Pompù. Yeah, ciao Radio, ci sentiamo, stammi bene, buon tutto, salutoni, buon quinti, buon tutto, alle prossime. Ok, dimmi, sta funzionando, cazzo, è ora, cazzo, meno male. Il problema adesso è trovarmi lo Smith adatto, più piccolo, e siamo a posto. Vediamo bene, cazzo, mamma mia, speriamo bene stasera. Alla GBC Fusalone aveva, speriamo bene. Vabbè, magari dal cassetto del centro meraviglia ci troviamo qualche cosa a Torino. Non lo so, io ho trovato uno Switzer che della FM500S in pratica, ma è più grande, hai capito? È leggermente più grande di 3-4 mm e mi servirebbe in pratica la moletta, hai capito, per il Fiat Lorenzo. Il discorso è quello. Vaffanculo. Il discorso è quello. Vabbè, pazienza. Vabbè, Antonio, vabbè, già si troverà. Ma che sappia da si recupera. Bene, Neda. Vabbè, Antonio, adesso ti abbandono che vuoi fare cosa qua in casa. Ci ascoltiamo dopo, se coincide, dai, prima di andare al lavoro, magari. Altri due passaggi non li faccio. Vabbè, non c'è problema, dai. Al limite ci sentiamo il 27, tanto la verità ha avuto problemi, quindi ho chiuso, hai capito? Quindi a un certo punto non mi è servito a nulla, hai capito? Ehi, vabbè, non si sa come finisce il tour, con queste cose, infatti io da scrivo poco e niente. Non devi stare che tu ci siano le compressioni o le tue scatole. Va bene, caro, dai. Ci aggiorniamo tra poco, Antonio. D'accordo, sì, va bene, non c'è problema. Adesso vediamo un pochettino, ci sentiamo dopo, dai. Per quello non c'è problema. Adesso vado al GPC, vediamo se riesco a trovare lo Smith giusto, mi sistemo l'RMS 200 e sono a posto. Perfetto, perfetto, grazie a me, tutto ti sei. Siamo una cosa in famiglia. E vabbè, io non ho fatto bene, dai, vediamo dopo se coincide. D'accordo, ok, a dopo, dai. Ciao ciao ciao ciao, buona, a dopo. Ecco, ecco, ecco, sì, ecco, ciao, buonasera. Ecco, sempre da Sorso. Ricogliari, ricogliari. Ecco, Franco da Sorso. Ecco, ciao, già. E infatti non ti ho più visto in giro. Come vai? Di nuovo la radio. Ecco, dai. E allora già accedi hai le radioline almeno per iniziare. E anche per finire. Però già va bene, va bene. Caspita, non pensavo che ti mettevi di nuovo la radio. Capo, oh, già sta andando bene, l'importante è che non c'è il stazionario. Non c'è. Ma dove sei? Sempre qua, dove c'era tuo padre? Capo, sì. Vabbè. Cosa vuoi fare? Come mai la schiena cosa hai avuto? Operazione per la schiena? Casino. Questi sono da denunciare, questa gente. L'hanno detto anche che non era un lettore le partiglie. Sono da denunciare quella gente. Oppure diventare quella a quel perruccia anche a fianco, vi dico già dite. Lo so. Alla fine si perde tutto, si perde. Pazienza, tutto si becca. Che io a te sì, da prima di a metà novembre, ho cominciato a cercare per fare visite, chi, ancora non mi gioco di staccato, ancora una giornata mi hanno prenotato già un'altra pronta, ma non mi si che entra. Arrivate in Oga, aiuto, non fecimo più, non fecimo. No, ti canto in visite. Ciao Franco! Cosa vuoi fare? Purtroppo. Però anche loro, ai pazienti, gli devono spiegare le cose. Non è il fatto che io sono quello, sono quello e non mi piega le cose, no? Non funziona così. Se non è rumestiere il doio, la fa pulire un dottore che fa che rumestiere reggio, no un chirurgo pratico o un chirurgo sta, lasciamo perdere, va. Oioia, va bene, va bene, va bene. E da quando ci sei in radio? Oh, ma tanto per cambiare discorso. Da quando ci sei in radio? Kappa, sì. L'ideale è, diciamo che devi controllare prima l'antenna se è buona, se non ha stazionari. Poi gli attacchi un rosmetro, gli attacchi in lineare. E in modo che vedi un po' la situazione. Poi una volta che il lineare va bene, è compatibile bene con l'antenna, se non ci sono stazionari niente, glielo togli il rosmetro e usi solo il lineare, poi vedi quanti fatti ti dà. Cazzo, io non lo conosco quello, non so come. E va bene, dai. Comunque Giulio si chiama, Giulio Dollaro. Boh, non lo so. Aspetta, a me mi sono attendo il stazionario, no, che invece. Vabbè, non è dubito. No, in notte. Non lo so, non so che tipo di stelletta stai dicendo. Non lo so. Io, vabbè, non è quella di prima, Questa è nuova. L'avevo presa nuova quando ho ricominciato. Questa è la Mantova Turbo. Quella che vi, non so se, vabbè, non so se l'hai vista tu, a meno che quando uscivi c'era. Ah, ecco, se la vedi allora sì. Sì, era Mantova Turbo quella, su un palo in un tubo innocenti da 6 metri. Ecco, sì. E sicuramente c'è, cos'è, nera, Ecco. Potrebbe essere un tipo bazooka, quelle sono quelle nere, un grossette. Sì, va bene lì. E quando gli metti 1 o 2 metri di palo lì, li metti così, non gli piace neanche tiranti, non gli piace. Intanto ho capito più o meno che antenna stai prendendo. Stai prendendo la. Aspetta la. Avevamo è fuggita del gabbo, è senza radiali anche quella lì. La matrice pazza lo stessa in continente. Sì, la Game Master è biliardo. Sì, ma è una buona antenna. Va bene, quella lì è tipo una canna da pesca, c'hai ragione, è tipo quella. È una buona, anche una buona antenna. Solo che frette un po', però non dovrebbe fargli niente. Vabbè. Sì, dovrebbe essere lo stesso, guarda che ha comprato casa Sosso, poi mi sembra che ha venduto. Oppure se non ha venduto ce l'ha ancora, però c'è ancora l'antenna attaccata lì. Non so se ti ricordi dove c'era la gabbietta sopra. Ecco, sì, mi ricordo quando avevi il negozietto e poi c'avevi lubi delle macchine, di verniciare, di fare, è morto e via. Era bello, almeno era un modo per svagarsi, mentre adesso purtroppo cosa vuoi fare? La vita va come. Non va mai al verso giusto come vogliamo noi, a volte va tutto al contrario. Sono i due preferiti, dai, purtroppo cosa vuoi se non riesci a realizzare. A voglia arrivi bene. non si affondò scala, guarda. E mi coso pure da chi subito, per i bisogniti, e pappagallini, queste cose così, Gianni, doppio rumo di Sassari. Sì. Gianni, va di tutto qua, mi pare che va pure i pappagallini, ma non gioco, sì, a meno che non l'ha fatto pure, però facciamo poco tempo fa la via. Perché non ti muovi, non riesci a digerirlo, a smaltirlo, veloce, a smaltirlo tu ci impieghi molto molto di più di uno che cammina e fa qualcosa, va? vabbè, ogni tanto adesso se incontri qualcuno qua in radio già si quattro chiacchiere. È già passa, ma diciamo che l'ho piazzato questo qua, mi sembra che era nel 2010 o 2016 o 2005, adesso non mi ricordo bene la data, però non è molto cazzo, sì. No, villaggio ancora, villaggio, sono proprio vedere con chi su, già, sono proprio vedere, villaggio sempre nel radio. Sì, prima si faziano un po' di QSL, si faziano, era peggio, era. Ma va, è un casino niente, tutto rumore, lunga sostanza. No, non lo conosco questa persona, non lo so chi è. E vabbè, se se la piazza già vediamo, arriverà. E vediamo se si piazza l'antenna, entra modulare, già lo conosciamo. Tanto, io non è che ci sono sempre, però diciamo che ogni tanto mi innalza in onda e mi metto a modulare. C'è gente, se no ascolto in altre frequenze e ci passo così. Capo, ma tu c'hai 40 canali solo? No, è un amplificato, quando c'è la batteria è un amplificato e se non gli metti la batteria non funziona. E quello lì, quella rotellina per aumentare e abbassare l'amplificazione. No, già, è perfetta. Prova a metterla a 10 a vedere quella rotellina. È buona anche a 10, vedi? È buona anche a 10. Aspetta già. Abbassala a 7. Vai a 8, lasciala così già. Sì, il Mickey Gain. Il Mickey Gain lo puoi mettere anche a tutto volume. Mettili tutti e due uguali, mettili, uno e l'altro, non fa niente. Lo squatch te lo registri tu mentre parli, se tu non vuoi sentire il rumore quando uno sacca, come adesso, sentimi, come sacco io, tu senti il rumore della frequenza. Quello lo giri, finché che non senti niente. Esatto. Ci sentiamo solo noi, ci sentiamo con la radio pulita. Come che sia al telefono? No, il volume te lo metti come ben viene a te l'ascolto. Quello è l'ascolto. Quello lì lo metti o lo abbassi a secondo la modulazione. Capito? Se è forte, bassa. Quello lì te lo regoli tu così quando stai parlando. Infatti è così. È bella la radio, però vabbè, tu c'hai ancora delle radio piccoline, c'hai baracchini, quando avrai qualche radio più diversa, con canali, con frequenze, vedrai che quando vai ad ascoltare ascolti anche roba più bella. Allora, il rosmetro c'ha, dovrebbe esserci scritto entrata e uscita. Quello piccolino con l'antennino dietro, sì, ho capito quali sono, che c'hai gli attacchi al fianco. e K. Guarda dove attacchi il filo dell'antenna, il filo o lo spettrone, c'è scritto antenna e l'entrata del per la radio. E per attaccare l'amplificatore ci vuole anche un altro spezzone, ci vogliono ancora un altro spezzone, ci vuole perché sono una antenna e due spezzoni, ci vogliono, perché devi collegare sia lineare, rosmetro e radio e poi se capita dai gli altri li posso anche piazzare. Ascolta già, lei sul 12, che magari se entra Gavino ci sente, perché qua non entra lui, prova a andare sul 12.